Non c'è come sentirsi osservati per attirare su di sé l'attenzione. È un po' come quando, camminando per la strada, si ha la sensazione di essere seguiti e ci si concede la possibilità di girarsi per vedere se è veramente così. Ecco, immediatamente si nota qualcuno dietro un angolo o semplicemente una persona che sta camminando per i fatti suoi, che subito ci sembra che ci stia pedinando. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Non so con quale coraggio, una mattina lui mi portò a casa sua per farmi vedere la libreria che aveva costruito con le sue mani. E per farmi notare quanto bello fosse il quartiere residenziale in cui aveva deciso di fare crescere la sua figlioletta di un anno insieme a sua moglie. Io ero la sua amante da 5 mesi e provai a fare un po' di resistenza, provai a dirgli che non era il caso, non solo per il rischio di incontrare vicini ficcanaso, ma perché semplicemente non era una cosa da fare. Lui insistette così tanto che alla fine cedetti. Passai interminabili minuti ad osservare l'interno di una casa pulita, ordinata, dove ad ogni angolo c'era un richiamo ad una vita familiare ancora acerba. Il cesto della frutta al centro del tavolo, la biancheria pulita in bagno, i giochi della bimba sparsi un po' ovunque. E poi l'orribile libreria che aveva costruito con le sue mani, che se avesse fatto ricorso all'IKEA anche la moglie gliene sarebbe stata immensamente grata. Sì, in quell'occasione mi sentii molto clandestina. Mi sentii fuori luogo e cretina. Per avere dato retta ad uno più cretino di me che voleva giocare a non so che cosa, forse al postino suona sempre 2 volte. E poi improvvisamente mi accorsi che io ero una clandestina. E se da ragazzina viaggiavo senza biglietto sul tram e poi lo raccontavo agli amici, ecco, in quel caso non mi andava. E della sua casa, delle foto del matrimonio, del salotto anni 70, del quartiere residenziale anonimo, non me ne fregava niente. Fu così che nel bel mezzo di quei minuti di clandestinità ebbi la mia rivelazione liberatoria. Non me ne fregava più niente neanche di lui. Ci sono molti modi per sentirsi clandestini. Uno è quello che mi ha scritto Anna Maria e che vi ho appena letto. E poi ce ne sono molti altri, come andare in treno o sull'autobus senza il biglietto, entrare a un concerto senza pagare, ma anche mangiare di nascosto mentre stai facendo una dieta e a qualcuno lo devi raccontare, quindi ti alzi di notte per mangiare. Oppure andare in un paese straniero con il visto scaduto o senza visto. E tutti, prima o poi, ci siamo passati da lì. Tutti abbiamo avuto la sensazione di essere la persona giusta ma nel posto sbagliato. Tutti abbiamo provato a non trovarci a nostro agio, no? A respirare un'aria che non faceva per noi, essere stranieri e clandestini. Ecco, se vi siete mai sentiti clandestini nella vostra vita, qualunque forma avesse quella clandestinità, e se avete voglia di raccontarmelo, come sempre, io sono qui. 800240024 349-238-6666. Vi parlo di piccoli attimi di clandestinità, in senso lato ovviamente, ma anche no. Sante, era il 1990 a Cuba, ero a La Habana a casa di un amico cubano. Avevo un voucher per l'hotel, ma non ci sono mai andato. Dormivo con la sua famiglia e non avrei potuto. Rischiavamo tutti un bel arresto. Hai la faccia da cubano, dicevano, e non da gringo. Ho superato brillantemente tutti i controlli informali del capo scala, del capo zona, del capo dei capetti del partito. La polizia non è mai arrivata e quindi io sono ancora qui. Stefano, qualche anno fa in Svezia guidavo un Audi A4 con la patente scaduta da 6 mesi. Non credo l'abbiano preso, però è la sensazione che conta, non se alla fine si è pagato o meno il conto. Ecco, vi chiedo un piacere, visto che questi sono i messaggi che io ricevo sul profilo Facebook, che è un profilo del programma, che è un programma in cui racconto delle cose, racconto la mia vita e quindi è un programma che fondamentalmente racconta una storia. Il profilo è Matteo Caccia, io sono qui. Ecco, vi chiedo un piacere. Ci sono chiaramente degli argomenti molto semplici, degli argomenti molto quotidiani e altri meno. Quelli di cui sto trattando in questi giorni sono quelli che appartengono alla categoria meno. La cosa che però vi chiedo è che di evitare di trasformare quel profilo Facebook in una sorta di arena in cui entrano le bestie feroci e i gladiatori. Nel senso che, primo, non mi va e quindi gestendola io li posso cancellare. Secondo, credo che ci sia un tasso di civiltà tra le persone che ascoltano questo programma che sia abbastanza alto, quindi mi piacerebbe che anche lì venisse fuori e semplicemente ci sia un modo per raccontare delle cose con un certo grado di serenità da parte di tutti. Mi metto ovviamente io tra i primi, così semplicemente perché si può dire quello che si pensa, si possono raccontare delle storie senza mandare nessuno a quel paese. 800240024 per chiamare in diretta invece per raccontarmi la sensazione di clandestinità che avete prima o poi vissuto nella vostra un'altra vita. Oppure 349 238 6666. Luca, un mio amico andava ai concerti del Conservatorio di Milano con un escamotage, dicendo di essere uno studente del Conservatorio, quando invece non lo era. Ogni domenica ci andava, si è fatto tutta la stagione. Un giorno gli chiesero la tessera e lui, placido e freddo, gliene diede una di carta plastificata con il simbolo del Conservatorio, un numero fittizio e il suo nome, dicendo che era provvisoria. Si fece tutta la stagione, stava veramente entrando nella parte. E poi ce n'è un altro che invece mi scrive Adil, io credo che forse anche, l'ho anche sentito, di Bassano del Grappa. Infatti mi scrive: sono Adil di Bassano del Grappa, ieri mi sono sentito un clandestino dopo... Aspetta, l'ha scritto velocemente. Perché questo weekend sono sceso a Campobasso per comprare una macchina vista su internet. Mazza, Adil, comodo da Bassano del Grappa a Campobasso, spero che li valesse quei soldi. Per comprare una macchina vista su internet. Ma dopo il passaggio di proprietà, nessuna assicurazione voleva farci l'assicurazione temporanea. Dopo tantissimi tentativi, ho deciso di partire senza assicurazione. Mi sono fatto 700 km. Sarà andato tutto bene, ma soprattutto spero veramente che quell'auto sia l'auto proprio quella che desideravi, Adil. Quella che della serie, guarda, vado anche a Campobasso pur di comprarla. 800240024, si parla di sensazione di clandestinità e più in assoluto di clandestinità. Insomma, da ieri ho fatto tutte le ricerche del caso, ma ancora non ho capito se sia penalmente perseguibile oppure no. Cioè, se a un certo punto potrebbero mettermi in carcere oppure no. Quello che è certo è che da due giorni sono in piena paranoia da nascondiglio. Ho il terrore di vedermi arrivare dei poliziotti in casa, dei carabinieri, o anche solo dei vigili urbani, con un manganello in una mano e delle manette nell'altra. Di notte sogno Anna Frank portata via dai nazisti, o mi vengono in mente le storie di quei bambini figli di italiani in Svizzera, che rimanevano nascosti anche per anni nelle case di Zurigo o di Lugano, perché agli emigranti non era consentito portare i figli con sé. Addirittura ieri sera, mentre ero al supermercato a fare la spesa, la mia paranoia era talmente alta che avevo timore che le persone mi guardassero nel carrello e si accorgessero che quello che stavo comprando era sospetto. Ad esempio, volevo prendere del couscous, ma ci ho rinunciato proprio per quel motivo lì. Poi sono passato davanti alle confezioni di hummus e ho fatto finta di non guardarle perché avevo paura di poter destare dei sospetti. Sì, mi sono sentito un cretino io stesso, però era più forte di me. Non c'è come sentirsi osservati per attirare su di sé l'attenzione. È proprio come quando camminiamo per la strada e abbiamo la sensazione di essere seguiti, no? A quel punto, se noi ci concediamo la possibilità di girarci per vedere se lo siamo veramente, immediatamente qualcuno dietro un angolo lo vedi, o semplicemente una persona che sta camminando per i fatti suoi, ma sembra ci stia seguendo. Sono arrivato alla cassa con il mio presto spesa, che è il lettore di codice a barre che ti permette di non fare più le code. Quando la cassiera ha inserito i dati in cassa, io ho sentito un fischio. Un fischio breve ma inconfondibile, che usciva dal computer. È il fischio che conosciamo, quello che sentiamo se passiamo il semaforo rosso o se facciamo l'attaccante avversario nella nostra area di rigore, quello che da sempre intima uno stop. Ho guardato la cassiera e lei mi ha detto che bisognava fare il riconteggio. Ora io lo so, ovviamente, che il riconteggio dei prodotti che avevo acquistato non aveva niente a che fare con il clandestino che stavo ospitando. Sapevo che non esisteva un chip nella cassa dell'Esselunga in grado di riconoscere la presenza di un reato nello scontrino della spesa di un cliente, lo sapevo. Però quando la signorina alla cassa mi ha detto «C'è il riconteggio?», io ho sentito lo stomaco che mi si stringeva in un pugno. Allora ho afferrato il sacchetto dalla base e l'ho rovesciato sul tapirulan. Lei ha ripassato davanti al lettore ottico il codice a barre di tutti i prodotti che avevo comprato. E alla fine mi ha pure regalato 7 punti fragola perché ero stato bravo nel segnarli tutti. Sono arrivato a casa, Samir era in bagno, Natalie non c'era e io mi sono messo a preparare la cena. Ho acceso la TV, sullo schermo è apparso il ministro della difesa, Ignazio La Russa, quello col pizzetto diabolico e la voce che spaventa i bambini. Stava guardando la telecamera dritto di fronte a sé, solo che io non sentivo cosa diceva perché il volume era troppo basso e per un attimo ho avuto la netta sensazione che Ignazio La Russa stesse parlando direttamente a me guardandomi in faccia. L'ho pensato al punto che quando Samir è arrivato in cucina con le mie ciabatte da piscina, io gli ho quasi urlato di nascondersi. Poi sullo schermo invece è apparsa l'immagine di una ragazza in costume e ho capito che il ministro non si stava assolutamente preoccupando di me o di Samir, ma delle solite cose. Corrupção, aposta, brefa, leva, falha, cai na malha, fim de mão. Se tempo é dinheiro. corrupção, aposta blefa, leva falha, cai na malha, fine irmão. Poi però a cena sono sbottato. Sono sbottato quando, mangiando con la luce bassa e le tapparelle chiuse, Samir, con tutta la serenità del caso, mi ha detto che avrebbe voluto andare un po' in giro a vedere la città. Io gli ho detto che non ci doveva nemmeno pensare, che qui noi rischiavamo tutti di finire in galera, prima lui e poi noi. Lui mi ha detto che la clandestinità non è un reato, e gli ho risposto che invece sì, caro mio, che lui non conosce le regole di questo paese, ma qui le persone come lui non sono così ben accette. Lui mi ha risposto che la mattina al bar la signora dietro al bancone invece era stata molto gentile con lui. Io gli ho detto che se avesse fatto un'altra volta una cosa così pericolosa come andare al bar di giorno, io l'avrei cacciato subito di casa. Gli ho detto che chiunque avrebbe potuto riconoscerlo e denunciarlo. Lui allora mi ha guardato e mi ha chiesto cosa intendessi per riconoscerlo, visto che in fondo io sono più scuro di lui e che lui ha i capelli corti e la barba rasata, mentre io invece potrei essere tranquillamente un fondamentalista in abiti occidentali. Ho guardato Nathalie, lei ha annuito come a dire, beh, sì, effettivamente c'ha ragione lui. E Samir non si è fermato. Ha continuato dicendo che io vado in giro vestito come uno straccione con le scarpe consumate, i jeans lisi e spesso le camicie tutte stropicciate, mentre lui almeno si stira le magliette e le sue scarpe sono nuove, tranne quando usa le mie ciabatte da piscina. Stavo seriamente per incazzarmi, ma anche su questo lui non aveva tutti i torti, erano anni che mia mamma mi diceva le stesse cose che diceva lui. Ho capito che era il caso di cambiare discorso e chiedergli quindi che programmi avesse per l'immediato futuro. Mi ha detto che voleva cercarsi un lavoro e sistemarsi per evitare di pesare troppo su di noi. Voleva trovare un modo per sfruttare le sue competenze, ma qualsiasi lavoro gli sarebbe andato bene alla fine. Prima però voleva chiedere asilo politico. Mi ha spiegato che l'articolo 10,3 della Costituzione italiana, e a memoria me l'ha ripetuto, dice che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. E lui aveva tutta l'intenzione di farlo. Si è finito il suo piatto di pasta, pure il mio, che non avevo più fame, e non volevo mangiare, perché dovevo andare a giocare a calcetto. Quando mi sono messo a preparare la borsa, lui mi ha detto che era un paio di settimane che non giocava a pallone, e che gli avrebbe fatto piacere fare una partita. Io mi sono ricordato che al campo manca sempre qualcuno, e che alla fine, per una volta da quando è arrivato in casa, Samir sarebbe potuto addirittura essere utile. Gli ho dato un paio di scarpe, dei pantaloncini e dei calzettoni. Poi ho tirato fuori dal cassetto la maglia dell'Inter di Snyder, e lui ha avuto pure il coraggio di dirmi che non voleva mettersela. Io gli ho detto che quella del suo connazionale Karja non ce l'avevo, lui mi ha risposto che me l'aveva già detto, che Karja è marocchino, non è tunisino. Alla fine si è preso una maglia blu e siamo andati al calcetto, che in fondo il campo è sotto al pallone e nessuno l'avrebbe potuto riconoscere. Whistle my name and I yearn. You take me in your arms, start to burn. F-I-R-E-I-N-C-A-I-N, whistle my name. Io a calcetto gioco davanti al portiere. Samir gioca in attacco. Abbiamo giocato l'uno contro l'altro. Io non sono un giocatore falloso, però odio quelli che ostentano il virtuosismo. Questo in generale, nella vita. Non mi piacciono gli assoli di chitarra, detesto i gorgheggi dei soprani e non sopporto i calciatori che fanno doppi passi a strafottere, come se per il fatto che passi il piede sopra il pallone senza spostarlo tu possa essere annoverato tra gli dei del calcio. Ecco, Samir è esattamente quel tipo di giocatore. Fa finte contro finte, muove i piedi così in fretta che sembra Mohamed Ali sul ring. Alla fine ha fatto 4 dei 6 gol della sua squadra e in un attimo ovviamente è diventato l'idolo dei suoi compagni, che lo chiamavano lo straniero, perché la fantasia è sempre dei campi di calcio. Io non me la sono mai presa perché, ripeto, sono un giocatore onesto e rispetto gli avversari. Quando però lui, dopo l'ennesima finta, mi ha saltato con un tunnel, io mi sono girato e gli ho tirato un calcione sulla caviglia che, paragonato a me, Materazzi sarebbe sembrato un agnellino. Lui non si è lamentato, io gli ho chiesto scusa, solo che quando siamo arrivati a casa, Nathalie lo ha visto zoppicare, gli ha chiesto cos'era successo, e io mi sono sentito terribilmente in colpa, e quindi ho deciso che saremmo andati al pronto soccorso, per controllare che fosse tutto a posto. Però Samir mi ha fermato, dicendomi che non era niente, non c'era nessun problema, che i medici non gli piacevano particolarmente, ma che soprattutto i medici sì, avrebbero potuto denunciarlo. Si è fatto una doccia e si è infilato nel divano letto. Dove vai? Da nessuna parte. Una rogna, mi hanno sfrattato. È colpa di quel testa di cazzo di Kamed. Sai, il mio coinquilino algerino. Era senza permesso di soggiorno. Sono arrivati i carabinieri. Eravamo tutti in affitto in nero, ma capirai. E adesso? E adesso sto in mezzo a una strada. 349-238-6666 800-24 0024. Per chi non l'avesse riconosciuto, era un pezzo di Boris quello che abbiamo mandato. Mi sono sentito clandestino quando, senza saperlo, mi ritrovai ad Ibiza ad una festa di soli gay. Io e il mio amico eravamo gli unici etero. Nessun problema, ma una grande sensazione di clandestinità. Sergio. E poi Giorgio, che si firma interista clandestino anni 90. Scavalcavo lato ippodromo, poi via di corsa sulle rampe fino in curva nord con i poliziotti che mi rincorrevano. Ho vissuto 3 anni in Sud America, avevo 20 anni, ero clandestino a colazione e qualche pranzo nei grandi hotel. Andrea. In Interrail io e il mio amico abbiamo perso il treno delle 2 di notte, in attesa del treno della mattina abbiamo quindi dormito per terra nella stanza di ostello di una compagnia di romani conosciuti poche ore prima. Non mi sentivo tranquillo e non ho chiuso occhio. Tu figurati, uno semplicemente perché dorme nella stanza di un altro li sente clandestino. Ho fatto, questa è magnifica, Marco, ho fatto quasi tutto il viaggio di nozze con il passaporto scaduto di mio fratello, finché non mi hanno beccato. Ora, già il passaporto è scaduto, in più è di tuo fratello, o meglio, già è di tuo fratello, in più è scaduto, almeno rinnovarlo. Da anni entro al salone auto di Ginevra senza biglietto, solo perché vado in abito scuro e con la cravatta della Ferrari. Questo è splendido. Però non, diciamo, dal tono dell'SMS non mi sembra che ci sia del senso di colpa. Ciao Matteo, mi sono sentita clandestina quando ho guidato la macchina in Tunisia senza avere l'autorizzazione. Ma tanto c'è una legge in Tunisia per cui la polizia non può fermare le donne al volante. Hai capito? Quindi, se non c'è la patente, parrucca e via. 800-24-0024. Andiamo da Maurizio, della provincia di Roma. Pronto Maurizio? Sì, ciao Matteo. Ciao, grazie per essere qui. Oggi Maurizio mi ha scritto questo messaggio che diceva: 1981, militare in fuga verso casa, cioè verso Roma, giusto Maurizio? Sì, sì. Condivisa a fare l'autostop sulla tangenziale, 4 tappe prima di arrivare a destinazione, Reggio, Bologna, Firenze, Montepulciano, in piena autostrada e sempre con la divisa, perché era più facile rimediare il passaggio. Insomma, clandestino alla luce del sole. Maurizio, ma tu fammi capire, eri scappato dal militare? Sì, sì, sì. Era un venerdì, decido di andare in fuga anche perché avevo salto con trappello, non ero segnato, quindi decido di andare in fuga e andare a trovare casa e la mia ragazza, oggi mia moglie. Sì. E niente, quindi decido di andare in autostop perché era più economico, ero come un vero clandestino, quindi con pochi soldi. Sì. In divisa, così come dicevo, ti ho detto. Perché è più facile, certo, perché più facile passaggio. Allora, ma era veramente così? La gente si fermava con più facilità? Sì, assolutamente. Guarda, io non ho fatto nessuna attesa. Tangenziale, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Montepulciano, caricato da camionisti, rappresentanti, padroncini. Giungo a Roma e niente, quindi sono arrivato a Roma. Però la cosa che volevo dirti è questo, cioè appunto come, cioè credo che dire clandestino spesso sia sinonimo di azione e comportamenti nascosti. Uh-huh. In questo caso no, era un clandestino alla luce del sole, no? Con pochi soldi e una divisa che mi contraddistingueva. Che ti copriva un pochettino. Tunisini, egiziani, marocchini, no? E tanti altri che al posto della divisa si distinguono per il colore della loro pelle. Sì, quindi certo. Era quello che volevo. Sì, è chiaro. Anche il discorso poi è leggermente diverso, però ho capito che cosa intendi. Dimmi solo una cosa, ma tu di fatto eri scappato oppure avevi una libera uscita? No, ero un scappato, cioè nel senso. Ma quindi scusami, ma se t'avessero preso, se ne fossero accorti che eri scappato, erano guai. Erano guai. Sì. Maurizio, sì. Ti ringrazio moltissimo. Ti lascio andare perché sento che sei fermo da qualche parte. Sì, sono autostrada del sole, sì. Che fai nella vita, Maurizio? Sono un funzionario di assicurazioni. Ma ci siamo già sentiti io e te? No, non sei quello a cui ho detto che per fare l'assicuratore basta la terza media, no? No, io ho 52 anni. Però confermi. Sì, in parte sì, ma non è così. Oggi come oggi no, oggi bisogna una bella preparazione perché il mercato è competitivo. Maurizio, ti ringrazio molto. Ti faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. Ciao, buona giornata. Io sono qui. Nella foto di oggi invece siamo davanti ad un bellissimo panorama montuoso, collinare e desertico. Wow, ne ho infilati 3 di fila, no? Di aggettivi. che però raccontano bene questa fotografia. C'è dell'erba, però c'è anche un po' di roba bruciata e il cielo è azzurrissimo, ma il vero protagonista è non l'autore chiaramente, altrimenti sarebbe stato dietro la macchina fotografica, però è la persona che ci ha mandato la foto. È un giovane uomo attorno ai 40 anni, ha un paio di occhiali da vista e un paio di occhiali da sole aggrappati alla maglietta con lo scollo a V, e si vede lontano miglia che la maglietta che ha su è una maglietta proprio da turista, comprata nel luogo in cui si trovava, che è due taglie larghe più di lui ed è di quelle che dal secondo lavaggio è già slabrata. Gianni Marcolin, 41 anni, dalla provincia di Treviso. Sono in Armenia. Dietro di me il possente Monte Ararat, con i suoi 5.165 metri, con le sue leggende e con il suo essere linea di confine. Io sono qui. Il Monte Ararat, c'era un tizio delle mie parti, di Trecate, che sosteneva di avere scoperto che sul Monte Ararat c'erano i resti dell'Arca di Noè. Ma era andato ospite tipo a Quark, l'avevo anche incontrato una volta per un programma, e lui aveva proprio testimoniato tutto, sosteneva che ci fossero questi pezzi di legno che erano l'Arca di Noè e che era stata ormeggiata sul Monte Ararat. Non so se poi l'hanno ritrovata, però insomma questa era la sua teoria. C'è la vendetta degli assicuratori, intanto, per parlare alla radio non ci vuole neanche la terza media. Ciao Stefano, assolutamente no, basta in teoria che ti hanno insegnato a parlare. Sono 25 anni, e poi torniamo sui clandestini, sono 25 anni che ho Angela, il mio amore clandestino, aiutami. Io ti devo aiutare, fate aiutare o da Angela o da uno che ne sa. Mi sono sentito clandestino ogni volta che ho fatto l'amore nella reggia di una donna sposata e ricca. In cambio abiti firmati e tanta attenzione. Claudio, nel 1984, clandestino in fuga dalla caserma di Verona nel furgone della lavanderia per andare al concerto dei Metallica. E qui comunque io continuo a stupirmi del numero, del nugolo di ascoltatori metallari che ci sono all'ascolto di Radio 24. Anche se una spiegazione c'è, me l'hanno data loro più di una volta, ed è non ci sono radio che danno musica metal decente, quindi ascoltiamo una radio in cui si parla e quando vogliamo ascoltare la musica ce la mettiamo noi. Clandestino, quando di nascosto andava al buffet non stop in crociera e mia moglie stava sui ponti, io pizza su pizza. Pippo da Rovigo, ma scusami, non capisco perché era clandestino, in crociera si mangia sempre. Nei confronti della moglie che non voleva, perdonatemi, oggi sono sveglio come un ghiro. Andiamo ad Alessandria da Jaha, credo. Pronto? Sì, pronto. Ciao, è giusto il tuo nome, come lo pronuncio? Sì, ma lo so, è sempre difficile pronunciare. Ma me lo dici tu esattamente? Jaha, perfetto. Di dove sei, Jaha? Io sono del Senegal, ma vivo qui in Alessandria da 4 anni. E che cosa fai nella vita? Ma io sono colorista. Scusami? Colorista come lavoro. Colorista? Sì. Cosa vuol dire colorista, perdonami? Ma insomma, in qualche parole, diciamo che noi facciamo della vernice, siccome la vernice sono delle formule matematiche che... Ah, ma quindi lavori in un'azienda che fa colore, un colorificio tipo? Sì, un colorificio. Ok, sì. Ok. Senti, raccontami la tua esperienza, che mi hanno scritto, 4 anni fa sei stato clandestino, giusto? Ma sì, sono arrivato clandestino perché dal Belgio, dove avevo un visto come studente, a un certo punto le cose erano diventate più dure, dovevo trovare una soluzione che era altro che ritornare giù, perciò sono venuto qui in Italia, ma col permesso di soggiorno, diciamo, vengo, non puoi lavorare, puoi circolare nella zona Schengen, ma non puoi lavorare. Senti, quanto tempo sei rimasto nella condizione, cioè senza dei documenti? Ma 2 anni in cui facevo dei lavori saltuari, diciamo. Senti, Jaha, dimmi qual è la paura più grande di una persona che si aggira per un paese in cui è di fatto clandestino e non hai documenti? Cioè, cosa che ti preoccupava di più? Allora, ciò che mi preoccupa e che preoccupa tanto dei miei amici, fratelli e altri, è la paura che possa avere la gente qui. E non sanno che noi abbiamo più paura di loro. No, guarda, questo lo immagino, però io ti chiedevo proprio, perdonami, proprio da un punto di vista pratico. Cioè, hai paura che so io, un poliziotto ti chiede i documenti, oppure hai paura che qualcuno ti denunci? No, o hai paura di farti male, di dover andare dal medico, ad esempio? Cioè, cose come queste intendo. Allora, giustamente, cose come questa è una cosa che da questo parte da un anno e qualche, diciamo che è la cosa che la gente teme di più, perché prima poteva anche andare all'ospedale a farti curare senza dover essere, cioè, devo dire, denunciato o qualcosa. E poi la cosa è da un altro lato pericolosa, perché io posso dare anche degli esempi qui di gente che conosco che sono rimasto a casa proprio per questa cosa, con una malattia, cioè sono finiti per contaminare tutta la casa. Senti, già venire più così anche. Ho capito, ho capito. Quanti anni hai, Jaha? Io ho 35 anni. 35. Hai una moglie o hai dei figli adesso ad Alessandria oppure? No, ad Alessandria sì che c'è un figlio, ma okay. non sono sposato qui, no. Ok, cioè sei sposato in Senegal? Non ho capito. Sei sposato in Senegal? Sì, in Senegal okay. Sono sposato. Va bene, va bene. Ciao, ti ringrazio molto, buona giornata. No, sono io che vi ringrazio. Ma, di cosa? Ciao, grazie. Andiamo a Bologna da Francesco, pronto? Pronto Francesco? Pronto. Ciao Francesco, pronto. Ciao. Sì, ciao. Ciao, senti, tu hai vissuto un altro tipo di clandestinità, mi sembra di capire. Sì. Cosa è successo? Ho visto un derby da milanista al terzo anello interista. Io con la mia famiglia, tutti milanisti. Ma vi siete appalesati come milanisti oppure... No, eravamo nascosti proprio... sotto i sedili. Guarda, beh, è che direi che non è il caso, perché in realtà i tifosi interisti di solito sono molto civili. Civili? Sì. Eravamo circondati da energumeni. Ricordami che derby era, Francesco. Terzo anello. Ricordami che derby. 1-0 dell'andata di Ibrahimovic. E abbiamo imprecato anche. Benissimo. Francesco, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo all'ultima telefonata, Nicola da Torino. Pronto, Nicola? Pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Raccontami la tua storia. Niente, non è una storia grande, però io avevo 16 anni, i miei si sono trasferiti in Francia e io mi sono, cioè, ho dovuto trasferirmi anch'io, anche a malavoglia. Immagino, era il 63. 64, avevo 17 anni. Senti, e tu avevi questa sensazione di essere nel posto sbagliato? Sì, difatti non ci ho resistito tanto. Non ho legato con non con la città, con proprio con l'ambiente. Io non ho, perché ho lasciato tutti i miei amici in Puglia, non lo so, non ho mai figurati Matteo che io per ritornare in Italia, sì. Allora, se io volevo venire in Italia dovevo andare in consolato a farmi fare un permesso, e siccome l'Italia è casa mia, e allora io ho detto no, faccio il militare, avevo 20 anni, 19 anni, faccio il militare e me ne vado in Italia. Nicola, poi sei tornato e ci sei rimasto, cosa no, fai? No, sono tornato a fare il militare, poi sono riandato su 6 mesi, lunga. E poi sono tornato a Torino. Senti, ma i tuoi genitori c'erano andati per lavorare, immagino? Sì, prima i miei due fratelli, poi i miei genitori. E poi sono tornati a casa tutti oppure sono rimasti là? No, c'ho ancora un fratello, sì, ancora un fratello in Francia... dal 64, lui adesso ha 61 anni. Nicola, lui è ambientato. Beh, beato lui. Grazie mille Nicola, buona giornata. Grazie a Ciao, voi. Grazie. Grazie. Caro Matteo, mi sento clandestino ogni volta in cui entro in università ad insegnare marketing. Il problema è che non ho mai preso il dottorato né vinto concorsi. Mi è stato chiesto dal titolare della cattedra e ho detto di sì, eppure ho coronato un sogno. C'è un bellissimo romanzo che si chiama Diario di un vagabondo e in alcuni pezzi fa così. Venerdì 6 aprile. Lasciato la Oakland Mall alle 4:30 del pomeriggio. Arrivato a Sacramento alle 8 di sera. Sabato 7 aprile. Non l'abbiamo mollato tutta la notte, sino a quando siamo arrivati a Truckee alle 7 di mattina. Era giorno, per cui era impossibile proseguire. Su tutta questa parte della tratta, gli addetti alle pulizie sono cinesi. Il personale del compartimento è italiano. Oggi qui ho visto il più grosso Terranova della mia vita. Più che altro sembrava un orso. Questa è l'ultima stazione, prima di entrare nel deserto. Mai visto un tempo del genere. Di giorno caldo pazzesco e di notte si congela. Il cielo è così limpido e l'atmosfera sottile che vedi le cose a grande distanza, ma ti inganni credendole vicine. Pensavo di avere la faccia abbronzata, ma era niente rispetto a quello che è. Il sole me l'ha spellata. Mi sembra di essere caduto nel fuoco. Feci il vagabondo a causa della vita che era in me, della bramosia di viaggiare che avevo nel sangue e che non mi concedeva di stare fermo. Io andai sulla strada perché non potevo starci lontano, perché in tasca non avevo i soldi per il biglietto del treno, perché ero fatto in maniera tale da non poter lavorare tutta la vita allo stesso turno, perché, beh, perché semplicemente era più facile che non farlo. Accadde ad Oakland, la mia città, quando avevo 16 anni. L'autore di questo libro si chiama Jack London, e il libro si chiama Diario di un vagabondo, è un libro del 1894, ma quello che racconta più o meno riguarda proprio quella sensazione lì, quella di sentirsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sono 6 anni che guido con la patente sospesa e faccio il rappresentante. Finirà, finora me la sono cavata. E poi, clandestino, ho avuto una storia con una poliziotta che era compagna di un carabiniere e io sono finanziere. Grazie a te, a Fabio Rudi Cantadori, a Stefano D'Andrea, a Tiziano Bonini e a Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi? Dove siete?